dove mi sono perso. Dove mi sono perso. La gente era tutto uguale. Tutta uguale. Dove mi sono perso. Era sesso senza amore. Dove mi sono perso. Era colpa mia. Colpa mia. Dove mi sono perso. Era l'ultima bugia. Non ci penserò a quante stelle.